La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e dai consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. L'articolo 136 riguarda gli effetti della decisione della Corte Costituzionale sulle leggi, cioè che cosa accade a una legge quando viene dichiarata incostituzionale. La legge dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quindi, in pratica, la legge viene eliminata dall'ordinamento, scompare dal sistema giuridico, perché ovviamente deve essere tutelata la primarietà della Costituzione, la forza della Costituzione. Ecco allora che la Costituzione non può ammettere, non può tollerare che ci siano leggi contrarie ai principi costituzionali. Una volta che la Corte Costituzionale si pronuncia, si tende ad eliminare ogni effetto della legge dichiarata incostituzionale, sia nel passato sia nel futuro. Eliminare gli effetti nel futuro è molto semplice, perché quella legge non si applicherà più. Facciamo un esempio banalissimo. Oggi una legge vieta di usare i telefonini. La Corte Costituzionale ritiene che invece questa legge è incostituzionale, perché l'uso del telefonino è un modo per garantire la libertà personale e la libertà di comunicazione. Ecco che da oggi, da quando viene pronunciata la sentenza, tutti possono usare il telefonino. Ma cosa accade per chi ha usato i telefonini nei giorni scorsi? Perché quella legge sul divieto dell'uso dei telefonini è rimasta in vigore qualche giorno. Ovviamente, una legge e una sentenza non possono modificare i comportamenti avuti nel passato. Cosa fa una legge, o in questo caso una sentenza della Corte Costituzionale, quando ha effetti nel passato? Comporta effetti retroattivi. Effetti retroattivi significa riqualifica i comportamenti, nel senso che io ho usato il telefonino una settimana fa e l'ho usato sotto il divieto legislativo, quindi sarò stato sanzionato, ho avuto 100 euro di multa. Intervenuta la Corte Costituzionale, intervenuta la sentenza, quel comportamento di una settimana fa diventa legittimo perché la legge è venuta meno. Ecco allora che la legge dichiarata incostituzionale viene eliminata dal sistema, nel futuro perché non sarà più in vigore, nel passato riqualificando i comportamenti già avuti.